Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sappi che se anche mi sei lontana c'è una telecamerina puntata su di te, ti vedo. Come che, mi vedi? Che non sei vestita come me oggi, stranamente. Come mai? Non lo so cos'è successo. Ho un giacchino blu e nero con il io sono invece color bianchi. Io ho invece la maglietta color corallo che ti piace tanto. Ah, io volevo venire a Roma elegante, infatti mi hanno fatto i complimenti. Sono qua tra amici, coccolata. Come anche da Alessandro Chiappini. Allora, il viaggio è andato molto bene, ho preso il mio trenino, sono arrivata qui bella, fresca, riposata, bella si fa per dire, comunque proprio mentre venivo noi siamo sempre a Roma, quelle belle dentro, Nicoletta, va bene, che aiuta, esatto. Fa anche quello. E mentre proprio venivo a Roma e le giochiavo qua e là come si fa quando si è in viaggio, mi è caduto l'occhio sui risultati di un sondaggio di Expedia, il sito web di viaggi statunitensi, che ha fatto una classifica dei passeggeri più problematici, insomma quello che non vorresti avere accanto. E ho scoperto che al terzo posto si piazza chi tendenzialmente alza il gomito, seguito subito dopo da chi parla ad alta voce al telefono. E non tiene i bambini a bada, perché al telefono in aereo ci si augura che non parlino. Ma al primo posto c'è il calciatore di sedili. Sai quello che quando tu sei seduto ti senti il suo ginocchio che ti arriva a metà quella schiena? Quella a me dà particolarmente fastidio in aereo. Devo dire che però sono solidale con queste persone, avendo le gambe lunghe anche io sono quella che vive un po' la condizione problematica di non sapere dove metterle. Non ti sei mai chiesta perché ti voglio sempre stare accanto e non davanti? Ecco, questo è svelato l'arcano. Era tutto un modo diplomatico per arrivare a passarmi questo messaggio. Sì, ma soprattutto per dire che parleremo di disturbi che possiamo manifestare, possono presentarsi in viaggio, nei viaggi in aereo, nei viaggi in treno, ma anche che possono crearci qualche fastidio quando stiamo a lungo seduti in una posizione non corretta, ad esempio anche alla nostra scrivania. Quindi parleremo di gambe, di formicoli, di tutte quelle cose che dici non sono, sarà vero o è solo una sensazione? Meglio sgranchirsi un po' le gambe. Quindi voi sgranchite le dita 800 24 00 24 se volete affrontare con noi questo tema / problema. Sai come lo chiama una mia carissima amica questo problema? Il nervoso alle gambe. Il nervoso alle gambe. Esatto. Se ce l'avete anche voi e non solo alle gambe, noi siamo qui. Mando un bacio a Floriana. Invece noi parleremo di tutte quelle situazioni anche che provocano... Esatto, certo. Per te tutte le mattine. Cioè. Vabbè. Quelle situazioni invece che ci provocano un nervoso a 360 gradi quando ci imbattiamo in situazioni di risparmio tradito. Come sapete monitoriamo molto attentamente tutte le vicende alla ribalta della cronaca. Stamattina ritorneremo a fare il punto della situazione che riguarda appunto quei risparmiatori che hanno investito in passato in azioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ieri c'è stato un nuovo incontro a Roma fra le associazioni dei consumatori e soprattutto i rappresentanti di Veneto Banca. Lo stesso gruppo di associazione dei consumatori nel pomeriggio ha incontrato Poste Italiane invece per capire che strada si può portare avanti per risolvere la questione di quei risparmiatori che hanno investito in fondi immobiliari presso proprio gli sportelli delle poste. Quindi io stamattina ho risparmio tradito. Per tutti i nostri argomenti, Nicoletta 800 24 00 24, apriamo il nostro numero verde. Volentieri, anche i messaggi al 349-238-6666. Bene. E tu leggerai anche i WhatsApp. Esattamente, stamattina tocca a me. Intanto direi di partire con la borsa che è veramente molto vivace da due giorni a questa parte. Andiamo. Allora, per tanti giorni abbiamo parlato dell'assalto dei francesi di Vivendi su Mediaset, poi abbiamo parlato della grandissima operazione di Essilor su Luxottica. Oggi, da ieri anzi, invece tocca alla finanza pura muoversi in borsa in maniera molto intensa, più 0,9% per il FTSE MIB a Piazza Affari, Generali più 9, Mediobanca più 8,5, Intesa San Paolo meno 4 punti. Questo è il responso del mercato oggi per la riproposizione del risico intorno a Generali. Leone di Trieste, il più grande gruppo assicurativo italiano, è uno dei leader, dei player più importanti a livello europeo. A quanto pare c'è una intenzione di scalata su Generali da parte di Intesa San Paolo, mosse di avvicinamento, anzi non chiamiamola ancora scalata vera e propria, mosse di avvicinamento, forse in funzione anche di in funzione appunto di difesa per possibili attacchi da parte di altri grandi player internazionali, la tedesca Allianz e la francese Axar, per difendersi da questi attacchi, in particolar modo nei confronti di quello di Intesa San Paolo. Ieri una mossa concreta è arrivata proprio da Trieste, che ha comprato il 3% dei diritti di voto di Intesa San Paolo, proprio per proteggersi, grazie alla cosiddetta disciplina sulle partecipazioni reciproche, la legge Draghi, da un possibile ingresso della banca nel suo capitale. Questo scatena naturalmente tutte le speculazioni possibili, e questi sono oggi i movimenti dei titoli, che naturalmente condizionano, come dicevamo, anche Mediobanca, primo azionista di Generali, con il 13% del capitale del Leone di Trieste, ma è intenzionata a dismettere anche una quota importante di questa, di questo possesso. Tra gli altri balzi segnaliamo Fiat, più 3,35%. Oggi Sergio Marchionne incontra Donald Trump. Abbiamo Unipolsai, più 2,46%. Banca Mediolanum, più 2,5 punti. Popolare dell'Emilia Romagna, più 2. Unicredit, più 2. Naturalmente tutto il risico e tutto il fermento intorno ai Generali scatena anche l'interesse degli operatori intorno a tutti gli altri titoli del settore bancario, finanziario ed assicurativo. In cara abbiamo Telecom, meno 0,6. A2A, meno 0,31%. Allora, visto che il mese di gennaio è volato, si sta già avviando alla conclusione, ci sembra importante ricordarvi due scadenze chiave per quanto riguarda un'incombenza di denari di cui abbiamo parlato tantissimo l'anno scorso, il canone RAI. Perché dobbiamo risollevare la questione? Ed è il tema del nostro piccolo approfondimento di questa rassegna stampa, perché c'è una doppia scadenza che cade il 31 gennaio per questa seconda edizione del canone pagato attraverso la bolletta elettrica. Buongiorno a Saverio Fossati del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Ciao Saverio. Allora, la fine del mese rappresenta il termine ultimo sia per presentare la dichiarazione di non possesso della TV, che va fatta ogni anno, sia per pagare il canone in un'unica soluzione con il modello F24. Andiamo per ordine. Il primo caso riguarda la dichiarazione di non possesso della TV. Chi sono le persone interessate a presentarla? Semplicemente quelli che effettivamente non hanno la TV, o meglio, scusate, nessun membro della loro famiglia anagrafica possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle case in cui normalmente risiedono. Questo è il senso, cioè non ci devono essere televisori in famiglia, in qualunque casa, certo, uno abita. In allora, questo caso giustamente il canone RAI non si paga, certo, e si presenta questa dichiarazione. Che ricordiamolo, va presentata ogni anno, perché da un anno all'altro si può anche comprare naturalmente, quindi il fisco vuole sapere se la nostra condizione di proprietà del mezzo è cambiata. Sì, non solo, in teoria quando la compri dovresti comunicarla sempre con l'apposito modello, dovresti comunicare l'acquisto in modo da cominciare a pagare il canone dal mese in cui l'hai comprato, però vabbè. Chi non lo fa non pagherà per qualche mese e poi semplicemente non presenterà la dichiarazione di non possidenza annuale. Va presentata entro, sì, il 31 gennaio, anche se effettivamente ormai è un po' tardi per evitare l'addebito in bolletta della prima rata, perché come si sa dall'anno scorso il canone RAI si paga nella bolletta elettrica. Si paga però mese per mese, a parte, esatto, l'anno scorso che è stata un'eccezione. Certo, perché è partito tutto, ricordiamo, a luglio, per cui il primo semestre è stato integralmente caricato sulla bolletta del bimestre estivo. Esatto, mentre invece da quest'anno si riparte secondo la legge regolarmente, per cui chi riceve la bolletta a gennaio pagherà un mese, chi riceve la bolletta a febbraio, perché molti hanno il bimestre, no? Quasi tutti pagano a bimestre, riceverà due mesi di canone, e quindi 18 euro e così via. Ricordiamo che quest'anno il canone è calato dai 100 ai 90 euro, esatto, e lo si paga in 10 rate, quindi i primi 10 mesi, da gennaio a ottobre. Raramente uno riceve la bolletta tutti i mesi, diciamo, quindi ogni bimestre si pagano 18, certo, euro. Però effettivamente c'è qualcuno che paga, ha già ricevuto la bolletta di gennaio e si è trovato addebitato questi 9 euro. Ora, qual è il problema? Il problema è che si poteva presentare prima, diciamo già da luglio, questa domanda, questa dichiarazione di non possesso. Chi l'ha presentata entro dicembre, soprattutto quelli che l'hanno presentata in via telematica, molto probabilmente non hanno ricevuto il canone, questa prima rata di canone in bolletta. Chi l'ha presentata dopo, cioè in questi giorni fino al 31 gennaio, è quasi matematico che lo riceva in bolletta se la sua bolletta è quella di gennaio. E quindi come fare per recuperare questi 9 euro? Esatto. Io suggerirei un solo sistema, perché è più lineare e molto più semplice. cioè pagare serenamente la bolletta con questi 9 euro in più e fare una domanda di rimborso, anche perché è molto comodo, il rimborso arriva nella bolletta successiva o in quella ulteriormente successiva, quindi non arrivano assegni, non arrivano bonifici, semplicemente viene decurtata dall'importo della bolletta elettrica del bimestre successivo. Quindi insomma quello che vogliamo dire ai nostri ascoltatori è che se vi arrivasse la bolletta da qui alle prossime settimane, vedete caricato l'importo, la quota, la quota pro parte praticamente del canone RAI e non avete il mezzo televisivo, vi siete dimenticati l'anno scorso di fare la dichiarazione di non possesso, dovete pagare e chiedere rimborso magari in un momento successivo. È una procedura un po' più semplice, magari qualcuno si accorge proprio del fatto che è arrivata questa quota di canone sulla bolletta per ricordarsi che non ha fatto la dichiarazione di non possesso. Saverio, senti, come si fa la domanda di rimborso velocemente? È molto semplice, guardi, io suggerirei di andare su Google e scrivere agenzia entrate canone RAI, la prima voce che appare ci sono tutti i modelli. Mm-hmm. Sia quello per la dichiarazione di non possidenza che quello per il rimborso. Certo. Un minuto di tempo per spiegarci anche che il 31 gennaio è la scadenza prevista per il pagamento del canone RAI in un'unica soluzione attraverso il modello F24. Chi la deve fare con questa modalità? Beh, diciamo sono casi un po' particolari, citiamo i più comuni. Sono i figli che abitano nella seconda casa dei genitori, come spesso accade, e hanno eletto lì la loro residenza, il domicilio, e di conseguenza hanno una loro famiglia anagrafica e in questo caso devono pagare il canone RAI. Però dato che la bolletta elettrica molto spesso è intestata ai genitori, allora i genitori non riceveranno due canoni, è lui che deve pagare autonomamente col modello F24. Altri casi più frequenti, i portieri, i portinai che abitano nella casa assegnata loro dal condominio, anche loro devono pagare, certo, con il modello F24. E infine l'inquilino quando la luce è ancora intestata al proprietario. Ti risulta che anche le persone invalide non debbano pagare il canone, Saverio? Le persone invalide non devono pagare il canone in particolarissime situazioni, ma normalmente devono pagare il canone. No, perché c'è un ascoltatore che chiede, allora anche queste persone devono comunicare ogni anno all'Agenzia delle Entrate il fatto che siano esonerate dal pagamento. Nel caso in cui abbiano diritto a non pagare, Saverio, anche loro devono presentare ogni anno una certificazione per l'esonero? Forse lui, questa persona allude a quelli che hanno più di 75 anni. Eccola là, per i quali è arrivata una buona notizia. Allora gli invalidi non hanno un'esenzione particolare, sono gli ultra 75 anni che sono proprio esenti. No, una volta che hanno comunicato la loro condizione non devono presentarlo ogni anno, perché ovviamente ogni anno hanno più di 75 anni e quindi non cambia la loro condizione. Certo. Allora, peraltro, a proposito degli ultra 75 anni che hanno pagato il canone fra il 2008 e il 2016 e hanno fatto richiesta di rimborso nel giugno 2016 perché avevano diritto appunto a non pagarlo, vedranno finalmente riconosciuto questo rimborso che era stato per tutto questo tempo negato, lo rivela una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta appunto il diritto al rimborso. Metteremo tutte le notizie relative a questa opportunità sul nostro profilo Facebook. Intanto grazie a Saverio Fossati, buona giornata. Buongiorno a tutti. A presto. E il traffico, e poi diamo la linea a Nicoletta per la rassegna stampa di cuore. Cuore e denari. E la rassegna stampa di cuore, mia bella Debora, parte con una notizia piccantina. Parliamo infatti di peperoncino, a cui allettante virtù si aggiunge quella di amico del cuore. Secondo i risultati di una ricerca pubblicata su Plus One dagli scienziati dell'Università del Vermont, il consumo abituale di peperoncino rosso piccante produrrebbe dei vantaggi per la salute cardiovascolare. Sarebbe infatti, senti un po', associato a una riduzione del 13% della mortalità generale. Però, e in particolare sarebbe in grado di prevenire il rischio di ictus e cardiopatie. Ma l'aspetto interessante che i ricercatori hanno ben sottolineato è che il peperoncino funziona anche su chi non conduce uno stile di vita particolarmente salutare. Allora, in linea con noi per commentare questa notizia che conferma quello che la saggezza popolare da sempre ha sottolineato, il professor Cesare Fiorentini, che è direttore sviluppo area clinica al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, un po' di peperoncino al giorno toglie il cardiologo di torno. Sì, la mela in ribasso, se mi pare. E un po' l'aglio per le streghe, come per le streghe. Già. Ma fa bene davvero al cuore, dottor professor Cimini? Ma guardi, quello che mi sembra di poter dire è che lo studio che è stato pubblicato ha tutte le caratteristiche per essere uno studio molto serio. Finora avevamo avuto, come dire, alcune segnalazioni un po' sporadiche, studi non controllatissimi, se posso dire, su questi effetti favorevoli del peperoncino, in particolare del peperoncino rosso. Questo invece è uno studio effettivamente intanto con una popolazione enorme, che si basa su una popolazione ricavata da questi grandi bacini di soggetti come che gli Stati Uniti hanno messo in piedi con questi survey, degli studi NANES molto molto popolosi, diciamo, sì, così, e che ha effettivamente messo in luce alcune cose anche per quanto riguarda il cardiovascolare che erano sempre state un po' intuite, ma non dimostrate. Comunque una dimostrazione non del tutto soddisfacente. Qua invece effettivamente ci sono numeri e elementi per dare forza a queste caratteristiche positive del peperoncino, in particolare rosso. Professor Fiorentini, lei lo usa? Lo uso, allora, perché io faccio come lei. Lei lo usa? No, io lo uso spesso perché mi piace molto. Spessissimo, stando un po' attenti perché ahi noi qualche cosina di, se si esagera in particolare, sì, qualche cosina di epigastralgia, un pochino di difficoltà anche a livello, diciamo così, intestinale, nella fase, nel territorio più esterno dell'intestino, inteso come qualche piccola caratteristica infiammatoria, non so, potrebbe darla, sì, nei soggetti magari che hanno una particolare sensibilità, o particolare, certo, sensibilità, bisogna stare un attimo attenti, però in generale io credo che bisogna cercare di rivalutarlo. Quello che si era sempre, diciamo così, intuito è che in alcune diciamo enclave di territori anche del nostro Sud Italia, forse, sì, ancora di più, no? Era stato già intuito, ci sono addirittura carni che vengono mescolate al peperoncino, le conosciamo bene. Insomma, certo, come al solito. Dai, promosso, dai, il peperoncino promosso, salva il cuore. Io lo promuoverei, ecco, con questo studio molto interessante, lo promuoverei con un piccolo, se posso dire, caveat, non so come. Sì? Mi raccomando, questa non è la panacea, certo, di tutto, quindi le attenzioni sul tipo di dieta, sugli eventuali farmaci nei soggetti che hanno delle patologie già conclamate. Sì, eccetera, non basta, eccetera, il peperoncino, ecco, certo, però dà una mano. Però dà una mano. Sì, grazie, sì, professor Fiorentini, niente, per essere niente, stato con noi. Buona giornata e buon peperoncino. Anche a voi, grazie, grazie, grazie. Arrivederci. E non finisce qui la lista dei meriti del peperoncino, è lunga, la ripercorriamo e commentiamo insieme a Luca Avoledo, naturopata e anche firma del nostro Daily Lab. Dottor Avoledo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, Luca. Allora, c'è chi lo aggiunge solo per dare sapore, invece potrebbe scoprire che pizzico dopo pizzico anche la linea ci guadagna. Dottor Avoledo, è corretto? È così? Sono sì, tutta orecchi. Ecco. Sì, anche qui le ricerche continuano e si stanno scoprendo delle cose sempre più interessanti. Il peperoncino aiuta la linea perlomeno per tre meriti diversi. Il primo è che alza il metabolismo, cioè consente al corpo di produrre più calore, di consumare più ossigeno anche per una mezz'ora dopo l'utilizzo del peperoncino, e questo aumenta il metabolismo, lo accelera, lo tiene desto. Ma in più il peperoncino ha anche la capacità di modulare, di ridurre il senso di fame, quindi ci aiuta a mangiare un po' di meno. E una tra le proprietà più recenti individuate è che, essendo un disinfettante, un antimicrobico, può andare in qualche modo a modulare la popolazione batterica del cosiddetto microbiota, la popolazione, la flora batterica amica dell'intestino, che si è visto che, se è alterata, può avere delle ricadute negative anche sull'ingrassamento, sul mantenimento del giusto peso. quindi peperoncino per dimagrire sicuramente promosso, insieme ovviamente a un'alimentazione però intelligente e ragionata, perché i miracoli, come giustamente dicevate, non li fa nessuno, nemmeno il peperoncino. Nemmeno il peperoncino, che però è un valido rimedio naturale anche per uso esterno. Pomate, unguenti a base di capsaicina vengono proprio consigliati in caso di contratture, strappi muscolari. È un consiglio quindi utile anche per i nostri ascoltatori che praticano magari con costanza e anche soddisfazione un'attività sportiva. Quindi un po' di peperoncino potrebbe lenire il dolore. Sì, la capsaicina. Abbiamo 30 secondi. Finiamo in fretta. La capsaicina, che è proprio questa molecola particolarmente studiata, è responsabile di tutte le proprietà benefiche, anche quelle di cui dicevate, ha anche un'azione rubefacente, quindi richiama sangue per l'uso esterno, e dopo una sensazione iniziale di bruciore, di dolore, in qualche modo poi anestetizza e porta via il dolore, quindi contratture, ma anche nevralgie, dolore, si può utilizzare con attenzione. Esistono delle preparazioni già pronte, perché quando il peperoncino in eccesso può essere controindicato e dare irritazione cutanea, in particolare per le mucose, gli occhi, la bocca, però preparazioni già pronte col peperoncino ben dosato possono essere utili anche per l'uso esterno, dolori e compagnia. Grazie dottor Avoledo, noi diamo la linea al nostro GR e ritorniamo subito dopo con un po' di peperoncino. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Cuore e denari. Buongiorno, come posso aiutarla? Sì, buongiorno, io chiamo per conto di mio nonno che ha 85 anni, aveva circa 20.000 euro di azioni proprio con Veneto Banca. Allora, guardi, innanzitutto lei deduco non abbia ancora ricevuto, il suo nonno non abbia ancora ricevuto la lettera, o ha ricevuto già la lettera o un messaggio? No, che io sappia non ha ricevuto nulla. Le lettere stanno ancora arrivando, quindi può darsi, non per questo vuol dire che sia escluso, ecco, okay, da questa offerta. Questa offerta riguarda un indennizzo, un riconoscimento economico a chi, come credo suo nonno, abbia, chi sia titolare di azione negli ultimi 10 anni, ovvero dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. Questa offerta prevede appunto un indennizzo, un riconoscimento economico per chi come voi, ecco, ha visto svalutare le proprie azioni. Questo va calcolato, diciamo, sono circa il 15% della perdita teorica sofferta, va fatto tutto in filiale il conteggio personalizzato, perché bisogna, è un calcolo complesso, bisogna vedere il prezzo, okay, delle singole azioni negli anni. Quindi per intenderci è una cosa che non posso risolvere io da qui al telefono, devo recarmi con lui in filiale? Sì, in filiale, okay, va fatto in filiale. Consiglio di prendere un appuntamento anche per, ecco, ci sono molte richieste. Certo. Lì le faranno il prospetto, diciamo, personalizzato, l'ammontare dell'indennizzo che spetta a suo nonno, le faranno anche, essendo cliente, una proposta commerciale, quindi diciamo maggiori vantaggi rispetto, non so, a un conto corrente, come può essere un conto deposito, se ha un mutuo, un'ipoteca, e lei ha tempo poi per decidere di valutare entro il 15 marzo. Sottoscrivendo questa offerta, lei si impegna a non promuovere alcun tipo di azione nei confronti della banca. Ecco, il messaggio chiaro e chiave è arrivato proprio nell'ultima parte di questa chiacchierata con questa brava operatrice, appunto messa a disposizione da Veneto Banca, appunto per rispondere al numero verde a tutti quei risparmiatori in possesso di queste azioni pesantemente svalutate, sottoscritte negli ultimi anni, e per le quali è arrivata questa proposta di indennizzo deliberata proprio la settimana scorsa, sia da parte di Veneto Banca che della Popolare appunto di Vicenza, il 15% di quanto inizialmente detenuto ed investito. Nicola Borsi, il Sole 24 Ore, buongiorno, Plus 24. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti che gli ascoltatori. Che te ne è sembrato di questa risposta di questa operatrice? Ma devo dire che molto preparata. Molto professionale, però poi alla fine bisogna andare in filiale a farsi fare il conteggio personalizzato. Allora, come sapete, visto che proviamo a tenervi quanto più aggiornati possibile, ci sono aperti diversi fronti problematici che riguardano migliaia di risparmiatori italiani incappati in una serie di disavventure finanziarie, investimenti sbagliati, sbagliati, mal consigliati, a volte sfortunati. Potremmo mettere tanti aggettivi, ma di fatto anche il 2017 si è aperto con altri casi da affrontare. Per tutto l'anno scorso ci siamo concentrati sul famoso salvabanche, gli obbligazionisti delle quattro banche risolte nel novembre 2015, indennizzati in larga parte dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. A inizio di quest'anno, l'inizio appunto di quest'anno, si è aperto con due casi: gli azionisti di Veneto Banca Popolare di Vicenza, che negli ultimi due anni hanno perso in via teorica tutto quello che avevano investito e a cui è stato proposto di accettare un rimborso del 15% del capitale. E poi c'è appunto una platea degli interessati che è piuttosto ampia, poi vi rifaremo un po' i numeri. Poi c'è il caso dei fondi immobiliari sottoscritti presso le Poste Italiane, per cui Poste sta proponendo una modalità di indennizzo che è al centro invece di serrate trattative con le associazioni dei consumatori, che propongono naturalmente dell'altro. Allora, ieri nuovi incontri a Roma su entrambi questi fronti. Oggi siamo pronti ad aggiornarvi sia con Nicola, che vi ho appena appunto presentato e ho risalutato, e poi con l'avvocato Maria Stella Anastasi della Lega Consumatori, che salutiamo. Avvocato, buongiorno, pronta a fare il nostro inviato a Roma appunto su questi temi. Avvocato, ben ritrovata. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ascoltatori che possono come sempre chiamarci all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Avvocato Anastasi, le ho fatto sentire la telefonata fatta all'operatore di Veneto Banca. Voi ieri avete incontrato i vertici della banca e naturalmente avete rappresentato le vostre perplessità su questo rimborso proposto agli ex azionisti o attuali ancora azionisti del 15% del valore del capitale inizialmente investito. Che cosa vi siete detti? Che cosa avete proposto? Mi pare di capire che dall'altra parte l'intenzione di modificare i termini dell'offerta non ce ne siano, perché in realtà non ci sono fondi per poterlo fare. Avvocato Anastasi. Sì, esattamente quello che ha detto lei, cioè abbiamo incontrato appunto ieri le associazioni dei consumatori, hanno incontrato i vertici di Veneto Banca. L'offerta di transazione è quella che era stata già anticipata e ovviamente già presentata, e quindi chiaramente questo è quanto. È un'offerta di transazione di tipo orizzontale, quindi abbiamo visto uguale per tutti. Diciamo che questa è la parte che probabilmente ci convince meno, proprio perché come dire, non condividiamo questa impostazione, nel senso che noi chiedevamo che le posizioni venissero esaminate singolarmente, perché ovviamente non tutte le vicende si sono svolte nello stesso modo, non tutte le vendite sono state effettuate nello stesso modo, quindi non tutti i risparmiatori avevano lo stesso profilo di rischio, e quindi di conseguenza questa cosa non la condividiamo. Ovviamente questa ipotesi è legata, come diceva lei, alle disponibilità che la banca ha, i nuovi vertici hanno potuto mettere a disposizione, il fondo Atlante che ovviamente è intervenuto, e quindi questo è quanto. Noi chiedevamo una procedura di conciliazione, quindi le associazioni non è che volessero fare le barricate o volessero portare i risparmiatori in causa. Le associazioni dei consumatori chiedevano una procedura di conciliazione paritetica che quindi consentisse di esaminare, come fu fatto in passato per altri casi di titoli andati in default, che consentisse appunto di esaminare i singoli casi. Mm. È una procedura però piuttosto complessa, naturalmente. Certo. Ricordiamo, Nicola, dati anche i numeri, quante migliaia di azionisti sono coinvolti appunto in questa partita, e che rende cifre che naturalmente rendono un po' complicato anche per le banche procedere per, come dire, conciliazioni individuali. Sì, si tratta di circa 94.000 azionisti di Banca Popolare di Vicenza, e nella platea sarebbero ricompresi anche 75.000 azionisti di Veneto Banca, quindi numeri assolutamente importanti. D'altronde erano stati importanti anche i numeri dei risparmiatori che erano stati sollecitati dalle banche ad aderire agli aumenti di capitale delle scorse gestioni, specialmente quelli che poi sono finiti sotto la lente della Consob per tutta una serie di pratiche irregolari che sono state sanzionate e che anche sono state rilevate dalla Banca Centrale Europea, tra le quali ad esempio la modifica del profilo di rischio rilevato in base alla normativa MiFID. Certo. Allora, ricordiamo, proprio per dare anche un po' la misura di quello che hanno perso questi risparmiatori, appunto, Peraltro quelli che verranno indennizzati secondo queste modalità sono quelli che hanno sottoscritto azioni, come ricordavamo anche prima, in un determinato periodo di tempo, quindi chi lo ha fatto nell'ultimo decennio. Esatto, quindi in precedenza non si vedrà riconosciuto nulla. Secondo te perché viene individuato proprio questo arco temporale, Nicola? Ma secondo me ci sono questioni legate a motivi giuridici, cioè da un lato credo che ci siano motivi legati a prescrizioni e dall'altro, come dire, si cerca di limitare anche il periodo nel quale si va a intervenire per motivi economici, perché le cifre sono molto rilevanti. Le banche in questo momento sono sottoposte a una situazione difficile che deriva proprio dalla gestione delle crisi precedenti, che avevano non rappresentato o misrepresentato, come si dice in gergo tecnico, a bilancio i rischi di una serie di partite finanziarie. Hanno stanziato una somma di 230 milioni per la Popolare di Vicenza e 101 milioni per Veneto Banca, a fronte di richieste già espresse e segnate a bilancio molto più ampie di danni, perché per Vicenza i danni chiesti sono 651 milioni e per Veneto Banca attualmente sono 236 milioni, secondo gli ultimi dati, diciamo, trimestrali. Il problema però è un problema molto ampio, a mio avviso, perché riguarda una pluralità di soggetti, e io in questo assolutamente concordo con l'avvocato Anastasi. Non si può, secondo me, fare di ogni erba un faccio. Certo. D'altronde perché basta chi leggere, ha avuto queste azioni in cambio della sottoscrizione, esatto, di un mutuo, chiaramente in una situazione diversa di chi invece, magari, che ne so, era l'amico dell'amico che voleva fare un investimento, magari con, esatto, un'ottica speculativa, e che magari, non dico merita quello che ha subito, però no, sicuramente solo, ha un approccio, sono, una consapevolezza, esatto, diversa. Ci sono anche situazioni diverse sul fronte dei possibili rischi per le banche, nel senso che se a un risparmiatore è stata modificata la profilatura, esatto, MiFID, qui siamo davanti a un caso molto grave, e la stessa Banca Popolare di Vicenza, leggendo tra le pieghe dell'informativa, comincia già a fare delle distinzioni, perché non ci sono soltanto i 9 euro erga omnes per tutti, ma agli azionisti che sarebbero stati scavalcati quando è stato bloccato l'internalizzatore sistematico interno per gli scambi, per cui gli amici degli amici sono state vendute le azioni, a questi invece no, la Banca Popolare di Vicenza offre 30 euro, quindi già si comincia, come dire, a rompere il fronte, esatto, unico dei c'è rimborsi. Un'ammissione sostanzialmente di responsabilità maggiore per quel gesto, certo. Allora, tra l'altro, avvocato Anastasi, abbiamo già ricordato anche in una passata puntata la settimana scorsa, quando proprio all'indomani della formulazione di questa proposta di indennizzo al 15%, che tutti gli interessati avranno 2 mesi di tempo per poter decidere se accettare o meno, ed è un tempo importante per fare riflessioni, perché se l'adesione avverrà all'80% di tutta la platea degli interessati, allora chiaramente la banca andrà avanti, ma se le adesioni saranno molto meno, qua si aprirà ancora un fronte diverso. So che avete parlato anche di questo ieri con i vertici di Veneto Banca. Sì, proprio nell'ottica che dicevo prima, cioè la richiesta delle associazioni era proprio quella di esaminare i casi in maniera diversa, singolarmente, quindi verificando le situazioni nelle quali erano stati venduti i titoli, ci è stato fatto presente che nel momento in cui dovesse chiudersi questa prima fase con un'accettazione appunto dell'80% dei clienti interessati, si potrebbe aprire un'ipotesi di conciliazione, come appunto le associazioni chiedevano dall'inizio, però riservata ovviamente alle situazioni di particolare disagio economico, una sorta di operazione umanitaria che va benissimo, ci mancherebbe naturalmente, ma è ben lontana ovviamente, come dicevo, da quelle che erano le nostre richieste, proprio perché, come diceva anche appunto il suo collega, la situazione nella quale sono stati alterati i profili di rischio ha delle caratteristiche di gravità, anche sotto il profilo giudiziario, ben comprensibili, certo, e quindi riteniamo che il tutto dovesse essere affrontato in maniera completamente diversa. Certo. Abbiamo detto quindi che è una questione di somme a disposizione. Infatti. Quindi, senta, prima di aprire il capitolo poste, per le quali pure ci sono delle novità maturate dall'incontro che avete avuto ieri sempre a Roma, oggi abbiamo una nuova figura nei confronti della quale appunto si può agire per provare a risolvere queste controversie di natura finanziaria. È il nuovo arbitro istituito dalla Consob. So peraltro, Nicola, che proprio presto sul Sole 24 Ore esce un lungo approfondimento su questa figura e il suo funzionamento. Potrebbe essere questa la strada nuova e praticabile per questi risparmiatori non contenti delle soluzioni offerte da Veneto Banca e Pop Vicenza? Ma io ritengo assolutamente di sì, ritengo che l'arbitro Perché Consob... peraltro loro se aderiscono all'offerta naturalmente accettano di non intraprendere azioni legali, nulla si dice sull'eventuale azione con l'arbitro della Consob. No, in realtà è un'offerta tombale da quello che ho capito io, nel senso che una volta che hai aderito a questo ristoro rinuncia a qualsiasi possibilità di chiedere qualsiasi altro tipo di azione, di adire qualche altro tipo di azione da qualsiasi altra parte. Io ritengo che l'arbitro Consob, finalmente l'arbitro per le consulenze finanziarie ci sia e sia una strada molto rilevante, soprattutto nei confronti di quella vasta platea di investitori che in realtà sono tagliati fuori dalle offerte di Vicenza e di Veneto Banca, ad esempio le società di capitali, perché non bisogna dimenticare che questa offerta in realtà discrimina fra diverse categorie di risparmiatori e taglia completamente fuori tutte le società di capitali, cosa che è stata stigmatizzata dalle associazioni delle imprese stesse, anche perché non si capisce per quale razio, per quale ragione, per quale motivo queste siano state escluse. Domani sul Sole 24 Ore esce questo inserto dedicato appunto all'arbitro per le consulenze finanziarie di Consob, che spiega esattamente quali sono le procedure per adire, quali sono i tempi, entro i quali si può ottenere anche una risposta, certo, e quali sono i limiti, perché ci sono dei limiti che sono ad esempio quello dei 500.000 euro di investimento subiudice per i quali si può dire all'arbitro Consob. Noi abbiamo già fatto una puntata peraltro proprio quando l'arbitro è partito con il tuo collega, con Antonio Criscione, quindi invito gli ascoltatori ad andare a ripescarla sul sito di Radio 24, appunto naturalmente nella pagina di Cuore e Denari, ma noi ci torneremo sicuramente al più presto. Capitolo Poste, allora, come ricorderete settimana scorsa abbiamo riparlato dell'ultimo caso che vede come protagonisti migliaia di risparmiatori italiani che attraverso gli sportelli di Poste Italiane hanno investito in fondi immobiliari, in particolare nel periodo 2002-2005. Uno di questi è giunto a scadenza a dicembre, il valore di rimborso è ben lontano da quello che immaginavano i sottoscrittori. Il fondo in questione, ne sono quattro in tutto, altri matureranno prossimamente. Il fondo in questione è Invest Real Security, IRS, e allora la proposta delle Poste Italiane è quella anche in questo caso indennizzare parzialmente rispetto al capitale investito, ricordando che naturalmente in questi anni comunque questi risparmiatori hanno anche visto riconosciuta la distribuzione appunto di dividendi, quindi va considerato anche questo aspetto appunto nella perdita complessiva. Avvocato Anastasi, ieri cosa vi siete detti a Poste? Anche qui la proposta di Poste c'era, ma avete chiesto delle modifiche. Sì, mi scusi, solo una precisazione, sì, perché purtroppo la vicenda delle due banche venete è molto complessa. Una cosa soltanto, l'arbitro per le controversie finanziarie Consob prevede che sia possibile ricorrere soltanto per i risparmiatori retail, quindi non per le società. Ecco, grazie di questa precisazione, perché è molto importante. È l'avvocato qua subito raddrizza le antenne, attenzione. Giustamente. No, vabbè, grazie mille. No, fatto bene. Essendo nato da poco, molte cose ci sì, sfuggono. Esatto. È molto, siccome proprio il problema delle società, anche quello è stato affrontato, anche se ovviamente le associazioni rappresentano fondamentalmente invece i risparmiatori retail, però ecco, è molto importante, non è possibile ricorrere alla CF per le società, solo per i risparmiatori retail. Dicevamo quindi di Poste, sì, Poste, allora diversa è la situazione, nel senso che la vicenda del fondo IRS ha determinato questa proposta di ristoro, quella che dicevamo ancora la settimana scorsa da parte di Poste, e anche l'ipotesi, quindi la prima proposta è quella che Poste offre sostanzialmente di integrare la quota diciamo della perdita che il fondo ha subito con una polizza costruita ad hoc per i clienti che avevano appunto acquistato le quote di questo fondo. Le associazioni hanno chiesto però che ci fosse una tutela specifica per gli under 80, perché diciamo coloro che hanno già compiuto 80 anni avranno già il rimborso integrale, mentre per gli under 80 che non, come dire, avessero dei requisiti di particolare disagio sociale ed economico, le associazioni hanno chiesto che venissero appunto esaminate le loro posizioni singolarmente. E stiamo costruendo un regolamento e un protocollo di conciliazione paritetica con Poste, diciamo che fondamentalmente stiamo individuando i requisiti che, per i quali chi avesse meno di 80 anni potrà fare appunto domanda di conciliazione. Requisiti che fondamentalmente sono legati alle condizioni economiche, quindi ad un ISEE che prenderemo con ogni probabilità appunto come parametro di riferimento, come è già stato fatto in altre situazioni analoghe, penso alle quattro banche risolte dello scorso anno, eccetera. Quindi l'ISEE inferiore a un importo che ancora non è stato indicato precisamente, ma sarà per esempio i casi di perdita del posto di lavoro, cassa integrazione e quant'altro, di malattia, invalidità e situazioni analoghe. Certo. Vi hanno dato disponibilità, Poste Italiane sono disposte a trattare su questi aspetti, sono d'accordo? Sì, stiamo lavorando proprio sull'individuazione di questi criteri e ottimo, quindi sulla realizzazione del tavolo di conciliazione paritetica con le associazioni. Una cosa che mi preme molto sottolineare per i risparmiatori di Poste coinvolti in questa vicenda, che a loro volta ovviamente riceveranno una comunicazione ufficiale da Poste relativa a questa offerta da una parte, che prima di assumere qualunque decisione si informino correttamente venendo dove vogliono negli sportelli delle associazioni dei consumatori. Ecco, perché se si va solo allo sportello della Posta ti propongono solo un tipo di soluzione. Diciamo che sicuramente verrà privilegiata quella ipotesi, ecco. Magari l'informativa sulla conciliazione potrebbe non essere, come dire, di totale competenza dell'impiegato, certo. E quindi noi quello che diciamo al cliente è: venite agli sportelli delle associazioni, noi siamo lì apposta per valutare con il cliente se avesse i requisiti per accedere alla conciliazione paritetica e quindi aiutare a fare la domanda e a presentarla. Ovviamente è una benissimo, domanda estremamente semplice, ma invece è importante capire se ci sono i requisiti che si stanno stabilendo. Benissimo, grazie avvocati, devo salutarla perché è tardissimo, ma tanto siamo in contatto, ci torneremo. 30 secondi a Nicola per concludere. Sì, soltanto due o tre cose. Allora, la prima, Plus 24 continua a seguire tutte queste iniziative, abbiamo già scritto anche di Poste, essendo stati il primo settimanale a sollevare il caso con Gianfranco Ursino. Continuiamo a tenere aperto l'iniziativa Filo Diretto con i risparmiatori di MPS sui rimborsi. Sappiamo che la settimana scorsa il presidente della Consob Vegas ha chiesto al Parlamento di modificare il decreto relativo. L'ultima questione, non si possono discriminare a mio avviso i risparmiatori che sono rimasti azzerati nelle quattro banche risolte, che rimarrebbero a questo punto per via proprio legislativa gli unici a subire un danno pesante. E poi io credo che non si possa arrivare sempre ai ristori, bisogna intervenire prima controllando che non siano collocati strumenti che sono inadatti ai risparmiatori, controllando che le reti di vendita siano formate, e forse bisogna anche evitare che qualcuno pensi che comunque c'è sempre mamma Stato che interviene. Bravo, ne sono completamente d'accordo, lo sa anche, ne parlavo settimana scorsa con Maurizio Bernardo, che è il relatore del disegno di legge di educazione finanziaria, che vorrebbe arrivare proprio a questo, impedire che allo sportello passino certi prodotti. Chissà se ci arriveremo mai. Grazie. Franco da Trieste ci scrive a cuoredenari@radio24.it. velocemente la borsa, poi passiamo all'approfondimento di cuore. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Volare, cantare. E adesso volare sarà sempre più basic. Debutta, pensate, in America la terza classe, ovvero la classe al di sotto di quella economica. Ma a diminuire evidentemente non saranno solo i prezzi, ma anche lo spazio. Quindi io prevedo tempi duri per le nostre gambe, che amano e devono stare comode e non costrette in posizioni forzate, pena manifestare una certa insofferenza, che in alcuni casi però attiva attenzione, potrebbe segnalare una certa sofferenza, un campanello d'allarme. Quindi se viaggiate in aereo spesso, chiamateci 800 24 00 24, ma chiamateci anche se non viaggiate, se rimanete con i piedi per terra, raccontateci dove portate le vostre gambe, come le tenete, se siete seduti per ore e ore alla guida di un'auto, di un camion, oppure se siete dietro ad una scrivania. Noi siamo qua, partiamo proprio dai segnali che le nostre gambe ci mandano e sono veramente delle sentinelle importanti per il nostro benessere. Intanto saluto il dottor Guido Arpaia, direttore della struttura complessa di medicina interna all'ospedale di Carate Brianza. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Dottor Arpaia, che dice di questa classe, terza classe? Sempre più economica, ma sempre più stretta. Quando parliamo di voli, di aereo, ci viene subito in mente quella che è stata definita la sindrome da classe economica, che è una definizione che risale a qualche anno fa, ma che racconta una situazione reale, anche un rischio per la nostra salute. Partiamo da qua, dottor Arpaia. Sì, assolutamente. Di sindrome di classe economica se ne parla parecchi anni e normalmente si intende il maggior rischio che questa può comportare, che è lo sviluppo di una trombosi venosa profonda. Non bisogna dimenticare però che nell'ambito di questa sindrome c'è anche quello che viene chiamato l'edema del viaggiatore. Di fatto le gambe costrette in una posizione seduta per lunghe ore possono anche manifestare dei gonfiori anche di una certa rilevanza che poi regrediscono però lentamente col termine del volo quando si ricomincia a camminare e a muoversi attivamente. Però sicuramente la sindrome da classe economica classica è quella caratterizzata dalla trombosi venosa profonda. È una sindrome della quale si è parlato a lungo in letteratura, ha avuto alti e bassi di interesse. Bravo, sì. Poi è stata, alcuni studi hanno detto no, non esiste, ma noi adesso non vogliamo entrare in questa polemica, certo, ma vogliamo naturalmente, come sempre, partendo da qualche spunto di attualità, dare dei suggerimenti ai nostri ascoltatori. E adesso quindi vogliamo, dottor Arpaia, con consigli per chi affronta spesso viaggi, viaggi in aereo, ma a partire da che durata di volo deve essere utile avere tutta una serie di attenzione e di precauzioni per chi vola e chi deve averle? Allora, sicuramente vengono consigliate le attenzioni per voli superiori alle 5 ore. Sì. Però le devo dire che, ad esempio, con i miei pazienti, soprattutto quelli che hanno magari già avuto una trombosi venosa, io spesso consiglio di tenere conto anche dei lunghi periodi di attesa in aeroporto. Può capitare che una persona debba arrivare in aeroporto 2 ore prima, stare seduto fermo in una sala d'aspetto per 2 ore in attesa del volo, poi parte, fa un volo magari di 3-4 ore oppure c'è qualche ritardo e tutti questi tempi vanno anche un pochino tenuti in considerazione, perché se è vero che ci muoviamo, seppur limitatamente durante l'attesa piuttosto che in altri momenti, comunque si parla di ipomobilità di una certa durata. Quindi ipomobilità vuol dire che ci muoviamo poco, che le nostre gambe siamo seduti, ne risentono. Allora 800 24 00 24, insieme al dottor Arpaia oggi ci occupiamo delle vostre gambe, dei segnali che ci mandano, ma anche le osserveremo. Naturalmente ci occupiamo non solo delle gambe di chi vola, ma anche di chi sta seduto a lungo, come dicevamo, a una scrivania, che a chi per lavoro deve fare tanti chilometri, quindi tante ore alla guida di camion, di macchine. Ci sono tanti camionisti che ci seguono. Dottor Arpaia, quindi lei dice ai miei pazienti, perché i medici vedono naturalmente un target ben preciso di popolazione, io suggerisco anche di considerare le ore di attesa prima di imbarcarsi. Ma qual è la persona che deve fare particolarmente attenzione e quindi poi seguire le regole, le indicazioni che lei tra poco ci darà? Allora, le persone a maggior rischio, soprattutto per quanto riguarda la trombosi venosa, sono le persone che l'hanno già avuta, oppure le persone che sanno di avere una malattia cronica. Ad esempio, definiamo anche che cos'è la trombosi venosa. Allora, la trombosi venosa è di fatto la coagulazione all'interno delle vene profonde delle nostre gambe. Sì. Può avvenire in tutte le vene del nostro organismo, però in questo caso focalizziamo l'attenzione alle nostre gambe. Questo, il sangue rallenta molto grazie anche al fatto che in posizione seduta si sta piegati col busto, si sta piegati sulle ginocchia, e il rallentamento del flusso del sangue in alcune persone può portare all'attivazione della coagulazione e quindi alla formazione di un coagulo dentro la vena. Questo coagulo può fermarsi lì e quindi dare solo un disturbo di tipo emodinamico, come una sorta di tappo, il sangue arriva con le arterie ma non se ne riesce ad andare e la gamba si gonfia e basta, oppure può anche muoversi, partire e risalire fino al cuore e poi ai polmoni per dare l'embolia polmonare, che può essere addirittura fatale quando è di una certa rilevanza e avviene improvvisamente. Questo, quindi non è bello che viaggi, ecco, assolutamente diciamo, non è assolutamente bello che viaggi. Ripeto, il rischio maggiore ce lo hanno quelle persone che hanno già avuto purtroppo un evento di questo genere e che magari hanno sospeso, perché è giusto farlo a un certo punto, una terapia specifica per questo tipo di problema. E tutte le persone con malattie croniche. Quando parliamo di malattie croniche parliamo l'elenco di malattie, è lungo. Sono tantissime malattie infiammatorie croniche, i portatori di tumori, molti tumori sono protrombotici, molte, ormai per fortuna, molte persone hanno durante il corso della malattia benessere e addirittura fortunatamente guarigione, però il portatore di una malattia neoplastica può essere a maggior rischio trombotico e quindi in questi casi è molto importante che vengano istruiti in qualche maniera a evitare la immobilità prolungata, quindi a muoversi durante il volo. Ecco, teniamo presente, parliamo sempre di volo, ma i viaggi in pullman sono almeno altrettanto pericolosi per certi versi, perché sono ancora più angusti. Certo. Quindi la mobilità, addirittura a volte si può arrivare a consigliare la somministrazione di una dose di eparina prima del volo o prima del viaggio, sia all'andata che al ritorno, proprio per ridurre la probabilità che si sviluppi la malattia. Quindi volevo leggere alcuni messaggi. Persone che hanno la valori di pressione elevata rientrano nell'elenco dei soggetti a rischio? No, li facciamo volare tranquilli. Direi non molto. Alcune persone che hanno, a seconda dei farmaci che prendono per la pressione, alcuni farmaci per la pressione, i calcio antagonisti in particolare, possono già causare gonfiore alle gambe per i fatti loro. In questa situazione il quadro può essere un pochino più eclatante, però il solo fatto di essere portatore di una ipertensione arteriosa non classifica la persona volare tranquilli. Ecco, sì. Tra poco vogliamo da Mario, che ci chiama dalla provincia di Milano. Pillola anticoncezionale può rappresentare un rischio? No, non per sé. Vogliamo tranquilli. Allora andiamo da Mario. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno. Lei vola Mario? Poi andiamo allora a sederci. Io volo, vado anche tanto in macchina. Sì? Faccio anche triathlon. Sì. Per cui volevo un attimo riassumere questa cosa, diciamo, volevo sapere se durante appunto i miei spostamenti, i miei viaggi, tutte queste cose, l'utilizzo di calze compressive che arrivano dal settore sportivo possono alleviare un po' questo problema. Mario, ma lei invita a nozze il dottor Arpaia, dottore? Io e lei dica la verità, è una bella calza compressiva che non ci ha dato nessuno. Allora diciamo che tra l'altro devo dire che la paternità della dimostrazione della utilità delle calze elastiche proprio per la prevenzione dell'edema del viaggiatore e quindi della trombosi è italiana, perché i maggiori lavori internazionali sono stati fatti da un italiano, Gianni Belcaro, che li ha pubblicati ormai parecchi anni fa. Sicuramente l'uso di una calza elastica non particolarmente pesante, l'equivalente di un 18-20 mm di mercurio alla caviglia, è utile per ridurre soprattutto l'edema del viaggiatore e per ridurre le probabilità di sviluppare una trombosi. Ormai ce ne sono in commercio, addirittura negli aeroporti si trovano in vendita nei duty free prima di partire. ce ne sono di vario tipo, del tutto ormai anche esteticamente valide. Però ecco, è importante la calza elastica, ma è importante anche il muoversi, non stare fermi 8 ore di fila durante un volo. Alzarsi ogni ora, 2 ore al massimo, muoversi un po' avanti e indietro, bere tanto, non disidratarsi in qualche maniera, muovere le caviglie, muovere le gambe durante il periodo in cui si è contrarre i polpacci, cioè fare tutti questi movimenti che servono a mobilizzare il sangue. Ecco, mi raccomando, nel frattempo però non mettete il ginocchio nella schiena di quel povero viaggiatore che sta davanti a voi. Abbiamo proprio ripreso in apertura, per lanciare un po' alla puntata questa classifica, che è venuta fuori da un sondaggio di Expedia, è proprio il passeggero che il compagno di viaggio più fastidioso è quello che probabilmente, seguendo i consigli del dottor Arpaia, si muove, ma il suo ginocchio finisce col piantarsi in mezzo alla nostra schiena. Ma adesso noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e autostrade. Nicoletta, Deborah, comunque sì, sempre colpa di noi altri, non c'è niente da fare, cioè, taglieremo queste gambe, cosa dobbiamo fare? Brave, state così a un casa. Po' puniti da, state a casa. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ritorniamo subito dopo insieme a Deborah, al dottor Arpaia, alle vostre telefonate 800 24 00 24, guarderemo le gambe, daremo loro un voto, ma soprattutto cercheremo di interpretare i segnali che ci mandano. A tra poco. Cuore e denari. Ma le gambe, a me piacciono. E noi torniamo con i piedi per terra. A proposito, credo, dottor Arpaia, che sapere dove teniamo i piedi potrebbe anche rivelarsi molto utile per lei, che oggi ha il compito di aiutarci a interpretare i segnali che le nostre gambe ci mandano, ma anche per darci dei consigli per preservare o recuperare il benessere delle nostre gambe. Ad esempio, c'è chi sta a lungo con i piedi ben appoggiati a terra, penso alle commesse, agli insegnanti, ai chirurghi, ai controllori, e chi invece i piedi li tiene, come dico io, un po' in ordine sparso, come dico io, ad esempio, come faccio generalmente io, ad esempio con il piede quando sotto il sedere quando mi siedo, oppure sotto la scrivania, magari non in modo perfettamente così ideale per il loro benessere. Allora, partiamo da qua, dalle gambe accavallate, che voi medici consigliate, a voi medici non piace tanto, perché è una posizione che in qualche modo mette un po' in difficoltà le nostre gambe, spesso se tenuta a lungo. Dottore. Certo, ma sì, sono questi atteggiamenti posturali quando tenuti in continuazione, soprattutto la gamba sotto il sedere, come lei prima diceva, obiettivamente non sono salutari. Ripeto, però è comodo. È assolutamente comodo, bisogna sapersi controllare in qualche maniera. Quello che si dice in genere per le persone che stanno perché stanno molto in piedi, lei ne ha citati alcune categorie, o perché stanno molto sedute, quello che noi consigliamo è sempre al massimo, come si diceva prima, ogni 2 ore al massimo, alzarsi, muoversi, camminare, fare un piccolo giretto che non è il giro della scrivania, se fosse possibile qualcosina in più, però sicuramente il muoversi e camminare. Quando noi camminiamo mettiamo in movimento la colonna di sangue delle nostre gambe. E loro sono tranquilli. E loro si lamentano di meno, si gonfiano di meno, ci danno meno fastidi, però il cammino è fondamentale. Se fosse possibile camminare sì, magari evitare di tenere il tacco 12, per esempio, per le signore in continuazione, perché la scarpa di questo genere è elegantissima, ma non fa lavorare come si deve né la nostra pianta del piede né i nostri muscoli del polpaccio, che però sono un le bel pompe tacco del 4, nostro un 4, ma un 6, tacco dai. 4 assolutamente. Non è il controindicato il tacco in sé, quanto una postura obbligata tenuta troppo a lungo, questo sicuramente. Allora, prima di fare il gioco del semaforo, perché sì, vorrei darle a disposizione sì, tre colori, verde, arancione, sì, rosso, e abbinare ad ogni sintomo il colore adatto in modo da farci capire subito se il disturbo che avvertiamo richiede solo una piccola attenzione, quindi alzarci dalla scrivania, fare un po' muovere le gambe, o invece se richiede un approfondimento o se dobbiamo interpretarlo un po' come un campanello d'allarme. Voglio dare la parola a Francesca, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Francesca, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie a, tutti. A lei. Ci io dica. Vorrei un consiglio dal medico, perché non ho tanto un problema di edema di cui parlava, quando sto seduta a lungo, sia in macchina che insomma anche al lavoro, ma un formicolio nella parte alta delle gambe, quindi all'altezza delle cosce, dei glutei. Ho un formicolio fastidioso che poi in effetti quando cammino, se subito dopo cammino a lungo, passa, però quando sono seduta, ecco, è fastidiosissimo. Volevo formicolio aggiunto a quelli che chiamavamo spilli da piccoli, Una qualcosa di simile, sì, una sì, cosa un formicolio, ecco, come se fosse addormentata, non so, la parte. Dottor Arpaia, a volte sì, abbiamo avvertiamo questi disturbi, non sappiamo se sono segnali o sono sensazioni, anche quello è un po' difficile da, così, da descrivere, ma che cosa ci racconta Francesca e quali consigli possiamo darle anche a beneficio di chi ci sta ascoltando e si ritrova in una situazione simile? Ma allora, c'è da dire una cosa, che normalmente i disturbi come quelli che ci descrive l'ascoltatrice, noi li definiamo come parestesie, cioè quindi sì, delle alterazioni della sensazione. Spesso le parestesie non sono vascolari, ma sono neurologiche. Quindi bastano, cioè sono i nervi che in qualche maniera, o per compressione o per alterate posture, cose di questo genere, vengono, diciamo, interferiti nella loro funzionalità e danno questo disturbo, questo formicolio, questi spilli che, ripeto, frequentemente appunto non sono per forza vascolari. È ovvio che solamente un esame obiettivo adeguato può distinguere chiaramente tra le due cose, però ecco, teniamo presente che a volte questo tipo di disturbi non sono per forza vascolari, ma possono avere anche delle banalissime, un po' di artrosi, cose di questo genere, cause da compressione di radici nervose, ecco. Allora, abbiamo solo due minuti di tempo, intanto facciamo il gioco del semaforo per raccogliere le informazioni. Gonfiore, specie alla fine di una giornata in cui siamo stati in piedi a lungo oppure tante ore sedute, giallo, rosso o verde? Ah, lo darei come giallo. Prurito o dolore appunto simile ai crampi, ma questa volta è di notte, dottor Arpaia? Ma che colore gli diamo? Possono essere di origine in effetti vascolare, venosa, diciamo giallo anche in questo caso. Capillari, oltre a essere antiestetici, quali indicazioni ci danno sulla salute e sul benessere delle nostre gambe? Assolutamente verde, nulla di così, hanno più appunto una valenza estetica che non di patologia vera e propria. Vene evidenti e anche un po' tortuose. Se sono varici, sono da tenere semplicemente sotto controllo. Direi comunque verde, le varici per sé non sono una malattia grave. Allora, un minuto per dare un consiglio, una raccomandazione a chi ci sta ascoltando per rimanere, come si dice, in gamba. Dottor Arpaia. Ricordarsi di usare le gambe, camminare. Deborah, come diciamo noi, camminare, e io aggiungo sempre sorridere, perché anche questo aiuta, non so se alle gambe, ma comunque tenere un pochino su l'umore ci aiuta. E seguire quindi Cuore e Denari, perché quale ricette fioccano per stare bene. E noi, io domani mi incammino e torno da te, Deborah, per bravissima, una nuova puntatona. Ti aspetto, ti tengo la sedia in caldo senza incrociare le gambe. Dottor Arpaia, ecco, sull'incrocio delle gambe non ci siamo soffermati, arrivano tanti messaggi, è davvero così così negativo, deleterio. Bravo, che non mi veniva il nome. Ripeto, no se è una cosa che non diventa un'abitudine di ore e ore e ore, cioè accavallare le gambe lo facciamo tutti, anche io in questo momento ho le gambe accavallate. Eccolo, però, non è così grave, certo è che se sto così fino a questa sera non va bene. Dottor Arpaia, grazie, alla prossima. Intanto io saluto Alessandro Chiappini che mi ha coccolato e tenuto come una regina. Bene, qua invece c'è Carmelo Lauricella in questa logica odierna delle partecipazioni incrociate di cui si parla tanto in finanza, noi l'abbiamo fatta così dal punto di vista tecnico. Vedi. Bene. Che assist. Laura Vanossi e Marco Lombardo, sempre attivissimi in redazione. Nicoletta, ci vediamo domani. Io preparo una puntata prendendo a spunto del Fatto Finanziario di oggi sulla banca assicurazione. Che cos'è questo oggetto misterioso? E io parlerò di uno spreco che può costare anche caro, non solo alla nostra salute, anche al sistema sanitario, che interessa le persone che utilizzano, che si fanno iniezioni con insulina. Benissimo. E quindi a domani. Ci vediamo domani. A domani, buona giornata a tutti.